Va bene, comincio io con due parole, due. Vabbè, presentiamo questo numero 5 di Officina Primo Maggio, che tocca alcune questioni nodali del divenire del presente. Diciamo quelle che mi hanno, diciamo, su cui metterei, sottolineerei, che sottolineerei sono una prima coppia di articoli che riguarda la produzione delle tecnologie dei semiconduttori, quindi tecnologia, diciamo, la produzione ad alto contenuto tecnologico, che in questo momento svolgono un ruolo cruciale nella trasformazione dei modelli produttivi e anche dei modelli di distribuzione e organizzazione sociale, che hanno avuto una spallata molto grossa col Covid prima e stanno avendo una spallata molto grossa con la guerra adesso, e che sono però soggette alle leggi della trasformazione materiale, quindi necessitano di un luogo, necessitano di essere trasportate, necessitano delle persone che fanno delle cose, e quindi entrano nel ciclo produttivo, diciamo, con un peso consistente. Ecco, dal punto di vista delle merci, occupano una funzione centrale tanto quanto, secondo me, è la logistica nella distribuzione. Diciamo, è un nodo cruciale, diciamo, passa tutto da là, e tenendo conto che i luoghi in cui questa produzione avviene sono pochissimi in questo momento, sono proprio molto risicati, anche in virtù del fatto che i requisiti, appunto, tecnologici e di investimento di capitale per mettere in piedi queste produzioni sono molto grosse. Una seconda parte consistente di pezzi riguarda il lavoro. Il lavoro, nelle sue più svariate sfaccettature, in particolare in quei punti di contatto, più critici, cioè quelli, a diretto rapporto con, delle figure di migrazione, delle figure sociali deboli, che in qualche modo subiscono in maniera più forte la trasformazione dell'esistente. E una terza parte, che è quella su cui penso vogliamo concentrare la nostra attenzione poi più avanti questa sera, riguarda la questione dell'abitare, diciamo così, della casa nella metropoli in particolare, che in qualche modo è un altro nodo tra l'esistenza delle soggettività, dei territori, la fisicità, appunto, delle persone, dei quartieri, e la trasformazione dei modelli produttivi che vedono il mutamento delle città. I pezzi sono due, e entrambi riguardano, diciamo così, degli osservatori, cioè dei gruppi, entrambi nati nel 2019, quindi di formazione abbastanza recente, che hanno uno a Venezia e uno a Milano, che hanno lo scopo di monitorare ciò che avviene nell'abitare della città, in particolare per quanto riguarda quelle che si potrebbero chiamare, una volta si sarebbero chiamate, le case popolari o i quartieri proletari, e che in questo momento sono un pochino una terra di saccheggio da parte degli immobiliari e insomma, della messa a valore del metro cubo, ecco, che fa un pochino da traino. Anche questi, a mio parere, è nodale tanto quanto, diciamo, nella stessa modo dei punti precedenti, perché in qualche modo sono testimonianza di come muta il rapporto della città con le persone. Una città che, io parlo in questo caso di Milano, diverso dal discorso di Venezia, che è citato qua, però si potrebbe portare l'equivalente, trasforma appunto la messa a valore del metro cubo, sostituisce la messa a valore con la produzione, con la messa a valore del metro cubo. Per cui le persone, che erano, occupavano delle case, stavano in delle case, stavano in dei quartieri perché dovevano, svolgevano un ruolo nel ciclo produttivo, in questo momento non servono più. E grazie anche a quello che è stata la grossa operazione di marketing dell'Expo e una serie di operazioni di marketing successive fatte dai sindaci Pisapia prima e Sala dopo, trasformano Milano in una città dove gli affitti aumentano a dismisura, i quartieri degradati perché lasciati a marcire nell'incuria vengono abbattuti e le case vengono ricostruite e per l'appunto messe a valore, archistare, operazioni tutte di questo tipo. Quindi in tutto questo ragionamento, in tutto questo numero 5, in tutti i numeri, anche come si può dire, di fine primo maggio, c'è questa, come si può dire, una specie di considerazione sul rapporto dialettico tra il mutare della storia e del motore, il motore della storia e dei soggetti e quindi della vita dei soggetti che ci stanno all'interno. Da questo punto di vista, io penso che Milano sia un esempio molto grosso, diciamo, perché la trasformazione in atto è enorme, l'espulsione dei proletari dai quartieri è forsennata, i costi dell'abitare raggiungono delle cifre spaventose, non solo quelli delle case del centro, ma anche via via di quelle che erano un tempo le periferie, che adesso sono un pezzo di un centro che cresce. E quindi diciamo è proprio un po' paradigmatico, ecco, come modello. Per una coincidenza, che forse non è una coincidenza perché i tempi poi sono quelli, quando le cose sono mature succedono così, proprio in questi giorni sta andando a conclusione una vicenda giudiziaria che riguarda proprio questo argomento qua, vicenda giudiziaria che direi parte nel 2018, ma si riferisce dei fatti avvenuti un po' prima e che è praticamente la storia di un gruppo di compagni che avevano fatto della questione dell'abitare un tema fondante dell'agire politico, avevano fatto questa cosa materialmente, quindi diciamo si pongono in una posizione molto diversa dai due osservatori che sono descritti nel numero della rivista, hanno un'azione diretta nel territorio, nei quartieri e che per questo danno molto fastidio. E di fatto vengono poi indagati con dei reati associativi, viene costruito proprio un modello, un disegno criminoso all'interno di questo agire nel territorio, forse anche perché oggi è una cosa più isolata, diciamo, abbiamo parlato altre volte di questo, probabilmente molti anni fa sarebbe stato in un contesto diverso, sarebbe stata vissuta come una cosa più corale. In questo caso, diciamo, forse era più isolato, quindi più isolabile, ecco, più isolabile. E questa inchiesta che prende il nome di Robin Hood, un po', che fa un po' ridere, perché Robin Hood sarebbe un personaggio positivo nella storia, cioè viene considerato, mentre invece in questo caso descrive delle figure, diciamo, particolarmente pericolose, e per cui appunto c'è stata un'udienza ieri, mi sembra, e di cui forse qualcuno meglio di me potrà poi raccontare in avanti. Ecco, basta, finisco così, non voglio scocciarvi oltre e passo a Sì, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Sono Andrea, faccio parte della redazione di Officina Primo Maggio. Insomma, mi fa piacere questa sera stare qui e intanto ci tenevo a nome della redazione a esprimere la solidarietà ai compagni e alle compagne che sono comunque coinvolti in questa vicenda. E dico giusto due cose per la, diciamo, per introdurvi un po' due informazioni sulla rivista, così magari poi insomma vi lascio parlare perché penso sia importante magari a questo punto ascoltarvi piuttosto che dire cose superflue. Però giusto per darvi l'idea che insomma questa è una rivista che nasce in seguito a un numero speciale, voglio ricordarlo perché mi fa piacere, perché siamo qui. Un numero speciale in ricordo dell'anniversario della morte di Primo Moroni. Abbiamo pensato con alcuni vecchi redattori di Primo Maggio di realizzare un numero speciale che poi si è rivelato un numero importante perché raffrontava dei temi che stavano comunque cioè un po' che riguardavano la contemporaneità, no? Come tu giustamente dicevi. Anche le questioni un po' storiche che affrontava la rivista Primo Maggio, sono state affrontate anche in questo numero speciale. Dopo questo numero speciale abbiamo cercato di, riprendere un po' il discorso perché pensavamo, avesse senso, continuare con una rivista, e quindi, approfondire un metodo, legato appunto all'inchiesta. E abbiamo sempre pensato sin dall'inizio di fare una rivista come mezzo, quindi pensavamo appunto all'idea di fare una rivista come operazione politico-culturale e di utilizzare la rivista come mezzo, non come fine, quindi come uno strumento per poter insomma dialogare con chi sta dentro le cose, con chi porta avanti delle rivendicazioni, soprattutto rispetto alle questioni legate al lavoro, però non solo. E abbiamo cercato di ragionare su questo, ovviamente anche affrontando molti problemi, facendo i conti col nostro senso di inadeguatezze e di, come dire, insufficienza nella nostra quotidianità, no? Insomma, però pensiamo che comunque fare una rivista sia importante soprattutto per elaborare delle riflessioni, perché pensiamo che oltre all'agire sia importante anche il lavoro di elaborazione perché favorisce, no? Insomma, noi tendiamo un po' a vedere i due aspetti come reciprocamente alimentabili, cioè l'azione alimenta la riflessione e viceversa, quindi una rivista può essere un luogo di elaborazione importante da poi come dire, coltivare per agire. E uno dei, come dire, una delle idee che abbiamo sempre cercato di portare avanti è anche quella di favorire il confronto in un'ottica ricompositiva, soprattutto riguardo ai temi legati al lavoro, quindi cercare anche di ascoltare molteplici prospettive, metterle in dialogo, cercare di insomma, mettere insieme, no? Un po' i pezzi, raccogliere un po' i pezzi rispetto poi, ovviamente facendo parlare chi si occupa direttamente di questioni, di rivendicazioni nella città, nelle città, quindi abbiamo come dire, dei contributi che provengono da vari luoghi, da vari territori. Su quest'ultimo numero, come dicevi prima tu, abbiamo cercato di affrontare il tema della casa, ma anche nel numero precedente. Insomma, c'è in particolare Emanuele Caon insomma, di un collettivo di Padova che ha preso un po', insomma, sì, ha cercato di approfondire un po' il tema e nel numero precedente di Officina Primo Maggio abbiamo insomma, ospitato un'intervista a Stefano Portelli che si occupa da tempo anche di questi temi e Stefano fa parte come Salvatore Porcaro che è qui con noi del gruppo di Napoli Monitor e quindi insomma, in un certo senso ci faceva anche piacere insomma, continuare su questa linea e in questo numero abbiamo ospitato due contributi che affrontano un po' il tema e pensiamo che insomma, valga la pena continuare a ragionarci, a rifletterci. Quindi niente, ribadisco il senso di questa rivista, penso che insomma, questo sia uno dei motivi per cui insomma, pensiamo che sono questi i motivi per cui bisogna fare le riviste, soprattutto cercare comunque di mettere insieme le riflessioni. E magari adesso non so se volete parlare prima voi oppure volete intervenire prima. Facciamo parlare prima loro e poi magari poi ci facciamo una, no? Insomma, io vorrei appunto, infatti, prima di lasciarvi la parola, magari ne approfitto per farvi, insomma, vi chiedo appunto magari di aggiornarci un attimo, di fornirci qualche informazione in più e poi magari, insomma, ci confrontiamo un attimo. Bene, grazie. Vabbè. Fare il che è arrivato in ritardo se, esatto. Ma se parla no, lo sai cos'è? Che sta facendo lo streaming, quindi il microfono serve più che altro per... ok, Sai che il microfono serve per... meglio, vabbè. No, vabbè, in realtà è poco più che un aggiornamento. Al di là di tutto, la cosa più importante del processo, al di là di come andrà, tra l'altro è stato ulteriormente rinviato e la sentenza arriva forse il 9 novembre, molto probabilmente il 9 novembre, non è neanche detto perché probabilmente ci sarà spazio per le repliche del PM, controrepliche degli avvocati, ma insomma il 9 novembre la prossima udienza è molto probabile che la sentenza arrivi lì, o forse verrà ulteriormente rinviato perché è anche un processo straordinariamente lungo, ma in realtà non... Cioè, anche per cause di forza maggiore, il Covid, una serie di infortuni che sono occorsi al giudice. Al di là di questo, vabbè, la cosa penso più significativa che si può dire è che al netto di tutto, al di là delle richieste pene, delle pene singole, insomma, di vari capi di imputazione, è il fatto che... la procura abbia comunque voluto portare avanti fino in fondo anche nella requisitoria la tesi dell'associativo. Cioè, una cosa che ho scoperto, anch'io che abbiamo scoperto, quando si deve indicare, quando si fa una richiesta pena, doveva indicare il reato più importante all'interno dei capi e poi a cascata tutti gli altri. E niente, per la procura resta comunque la cosa più importante l'associativo. E quindi, non so, la sensazione che sia più quella, più di tutte la cosa che vogliono portare a casa in subordine, che boh, magari anche interessante, la questione delle resistenze, sulla quale forse poi replicherà il PM. Però al di là di questo, fondamentalmente, per quello che concerne, al di là della nostra personale vicenda processuale, che sì, per carità è importante, ma relativamente da un punto di vista politico, più il fatto che, nonostante il fatto che il comitato fosse il comitato del Giambellino, il PM stesso non nella requisitoria non gli riconosceva i caratteri tipici di un'associazione, tra l'altro non riconosceva, bontà sua, poi la gerarchizzazione, tutta una serie di cose, sono parole che ha utilizzato nella requisitoria. Ciò nonostante, fondamentalmente, ha detto però si sentivano, si volevano, era un sodalizio e tanto deve bastare per sostenere il reato di associazione. Quindi un po', per quello che possiamo vedere noi, sembra essere questo il dato più importante, che la procura vuole portarsi a casa la condanna sul reato associativo, poi di che entità. E se ci sarà lo vedremo, però dalle ultime udienze, poi in realtà l'ultima sono state le repliche dei nostri avvocati, e non so neanche se è importante o significativo riportarle qui. Per quanto riguarda, diciamo così, l'accusa, questa è la cosa più significativa. Più che altro perché, non so come dire, ma al di là di qualsiasi giudizio, di qualsiasi storia, è significativo che un sodalizio, come tanti altri, no? Che c'è stato, né più né meno, nella città di Milano, del quale tra l'altro l'accusa stessa riconosce tutta una serie di incongruenze col reato associativo, venga, e sia quello su cui si punta, si appunta più di tanto l'accusa. Ecco, questo è abbastanza significativo ed è forse l'aggiornamento più importante. Poi dal punto di vista processuale, vediamo il 9 novembre, è anche un processo abbastanza molto lungo e si è trascinato per tanto tempo, probabilmente il 9 va a finire. Però questa è la cosa, cioè si è visto che tutto quello che era stato tirato su ormai 4-5 anni fa è la stessa cosa sulla quale la procura vuole mantenere il punto. Questa penso sia la cosa più significativa da dire, poi non so se... Vabbè, poi magari, cioè, magari chi è qua ha già seguito la vicenda processuale, quindi già sa come sono andate le cose, però giusto per entrare magari più nello specifico, su come è stata costruita questa accusa, diciamo qua è un elemento importante, che è, diciamo, l'elemento indiziario che sostiene più di tutti, cioè, questa accusa sono le intercettazioni che sono state richieste nell'inverno del 2016-17 per 3-4 mesi, e concesse dalla procura per ovviamente un'indagine costruita dai carabinieri su un presunto anche interesse economico di partenza, nel senso che inizialmente l'indagine era proprio costruita basandosi su testimonianze di personaggi nel quartiere che ci accusavano di voler arricchirci occupando le case, aprendo le case alle persone, così. E quindi questo ha permesso inizialmente appunto di costruire questa indagine sull'associazione a delinquere, poi trasformandosi nel corso del tempo appunto cioè cambiando le motivazioni una volta che resi conto che la motivazione economica non era sostenibile. Hanno trovato un altro, diciamo, un altro motivo per giustificare l'associazione, però in qualche modo questo ha permesso, come reato forte, di chiedere le intercettazioni telefoniche a, credo, una quarantina di persone, anche di più forse, per 4-5 mesi, e diciamo, tutte queste telefonate intercettate sono il grosso corpo indiziario che sostiene l'accusa di associazione a delinquere, che è quello che in qualche modo, attraverso varie frasi estrapolate da discorsi fatti al telefono, da appuntamenti, ci dobbiamo vedere lì a quell'ora, c'è una riunione in quel momento, è stata occupata quella casa, insomma estrapolando soltanto ovviamente quegli eventi che erano rilevanti dal punto di vista penale, quindi le occupazioni e queste presunte resistenze, quindi questi eventi che erano dei momenti sostanzialmente di solidarietà che venivano a crearsi quando c'erano degli sgomberi, quindi persone del comitato del quartiere che si attivavano e scendevano in strada, ma opponendosi quando riuscivano, ma la maggior parte delle volte era semplicemente una presenza testimoniale anche al fatto che avvenivano degli sgomberi. Questi vengono ovviamente interpretati come delle resistenze, e quindi questo è, diciamo, il grosso. Cioè, sì, quello che ha permesso poi di giustificare questa accusa, di farla arrivare anche durante tutta la vicenda processuale, che è stata molto lunga, con tanti testimoni da parte dell'accusa, anche non così significativi, perché poi alla fine anche queste testimonianze che hanno portato non hanno aggiunto niente all'indagine. Però sostanzialmente questo ha permesso poi di arrivare in fondo, e quindi di sostenere, anche se con le richieste minime, perché poi alla fine il PM ha chiesto il minimo di pena dell'associativo, che è 3 anni, però comunque, come diceva Nick, l'hanno sostenuta fino in fondo e sono arrivati a fare queste richieste. Quindi adesso vediamo a novembre se ci sarà la sentenza, se il giudice, se comunque il tribunale si assumerà anche questa cosa di comunque condannare per associazione a delinquere, c'è un gruppo di persone che è stato anche ribadito in aula, che comunque le motivazioni, che noi abbiamo fatto delle dichiarazioni, la difesa ha portato ovviamente le nostre motivazioni rispetto a quelle che erano, cioè le intenzioni, quello che stava a fondamento di questo gruppo, no? Le intenzioni politiche, sociali, di solidarietà, di intervento politico. Tutte queste cose sono state riconosciute anche dalla controparte, dalla procura, dall'accusa. Quindi le motivazioni sono valide, cioè sono nobili, però il fatto di riunirsi per commettere una serie di reati, Questa può essere, cioè può essere, diciamo, definita un'associazione di lingue. Quindi vediamo se comunque sarebbe anche una cosa abbastanza pesante dal punto di vista, cioè come precedente, perché inedito comunque, cioè negli anni sono stati tanti episodi anche nel passato. Ma anche il più recente si cosa, che però è anche una situazione leggermente diversa, però sulla questione della casa, su comitati di lotta per la casa, sono state molte volte tentate le accuse di associazione a delinquere, poi cadute o subito, cioè proprio anche all'inizio, durante l'inizio del processo o alla sentenza. Adesso vediamo se questa volta. Sì, infatti dicevo anche Sicova, però. Lo scopo è quello di. Se vuoi dirlo te. No, no, va bene. No, credo che lo scopo sia un. Ma poi adesso sono tutte cose che abbiamo. Sono di non esperto, però che abbiamo imparato un po' empiricamente nel proseguo del processo. Per quello che ho capito, che abbiamo capito, lo scopo forse è la cosa più debole dal punto di vista dell'accusa. Proprio per il fatto che si tratta di una. Però, ripeto, cioè, io non sono un giurista. Però, proprio per il fatto che si tratti di un'associazione, nella fattispecie, nella grammatica del diritto, mettiamola così, che si tratti di un'associazione a delinquere e non un'associazione sovversiva. Quindi, in realtà, un'associazione a delinquere, da quello che ho capito, però, ripeto, magari c'è qualcuno che sa di legge di più che mi può smentire, ma un'associazione a delinquere deve avere in qualche modo un fine, diciamo, di guadagno per le fattispecie del diritto, sempre per la grammatica penale. E infatti, ed è un po' la, credo che possa, cioè è un po' il, non so come dire, la cosa un po' debole di questo genere di accusa, da quello che ho capito. Cioè, da quello che ho capito, ripeto, di come si traduca nei termini del diritto, perché è descritta nei termini che poi rispetto a quello che era è anche buffo. Però è descritta nei termini di un sodalizio che si vorrebbe sostituire allo Stato, comunque che aveva un chissà quale potere poi di fatto all'interno del quartiere, questo è di là, anche nei termini proprio materiali di come era abbastanza buffo. Quindi con i caratteri, diciamo, quasi, cioè, molto più simili a quella che dovrebbe essere un reato associativo di altro tipo, però un'associazione a delinquere, l'associazione a delinquere teoricamente dovrebbero avere, non so come dire, un fine ultimo di guadagno. Però non è. Sì, no, no, no, dico per. Però non è il nostro caso. Infatti è un po' strano perché è un'associazione a delinquere che quindi è come se fosse, ripeto, sto usando termini che a me e a nessuno di noi piacciono, ma è come se fosse un'associazione a delinquere comune, non so come dire, come per un reato comune, ma tratteggiata e all'epoca e poi in aula con dei fini politici. Quindi da quello che ho capito io, per quanto ne posso capire io di diritto, credo che sia un po'. Cioè, è un po' pasticciata da questo punto di Un vista. po' il punto Poi dopodiché, questo insomma, vale quel che vale, però. Cioè, mettiamo nelle categorie del diritto, credo che sia un po' pasticciata. c'è un discorso che in realtà su 3 anni di intercettazioni ci sono alla fine 4-5 casi di occupazione. Concretamente, poi se noi andiamo a vedere nello specifico quello che è il reato di associazione, se a delinquere ci deve essere uno scopo finalizzato al lucro, se è associazione sovversiva, allora un altro. Noi in tutti i casi, viene da dire, non rientriamo né da una parte né dall'altra. Per cui, non so, su questa cosa è il punto debole, però. C'è questo strumento forte che hanno potuto utilizzare, che sono le intercettazioni, che sono secondo me è il problema più grosso, perché se qui la spuntano su questa, riescono a darcela, che mi sembra assurdo, improbabile, proprio perché veramente non sta su con niente. Ripeto, anche i reati di cui siamo imputati sono 4, 5, 6 nell'arco di circa 3 anni. Non c'è una quantità, dici, non c'è, cioè, se proprio anche le resistenze, come sapete, sono tutte di carattere di presenza praticamente. Non, e niente, semplicemente se questa cosa va avanti in questi termini è semplicemente perché è lo scopo finale di tutta questa cosa che sono riusciti a mettere in piedi, come sono riusciti a mettere, questa qui è una cosa costruita dai carabinieri, perché sul quartiere, finché il comitato c'è stato, è stata una forza che ha rotto i coglioni pesantemente, e non per niente ieri hanno sgomberato e non c'era nessuno, hanno sgomberato famiglie, come sappiamo, hanno sgomberato un intero stabile che in altri momenti col comitato si era riuscito a ottenere delle cose. Non per niente una nostra coimputata è riuscita a tenere la casa così temporanea, però intanto adesso è ancora lì in questa casa. E voglio dire, una grossa, un pezzo importante l'hanno fatto, hanno distrutto un comitato praticamente in quel quartiere, e adesso stanno proseguendo con quello che era il loro obiettivo principale, quello che era la trasformazione di quel quartiere in quello che dovrà diventare. Fra un po' si spostano più in là, fanno la Barona, piano piano il Quarto Giaro, e questo è più o meno il progetto sulla Milano da bere, e niente. Poi magari mi viene in mente qualche altra cosa da dire sul comitato. Su. E, vabbè, io dico qualcosa e loro l'hanno detto. Io ho partecipato all'ultima udienza da spettatore e devo dire c'è stato un lungo intervento dei legali conclusivo, che ha contestato i vari capi di accusa. 43 sono? Oh, 43 capi d'accusa, e appunto molti riguardano la resistenza in occasione di occupazioni, e devo dire che la cosa che è emersa con chiarezza un po' è che su cui gli avvocati hanno molto insistito è portare queste azioni all'interno di un contesto di attività che il comitato svolgeva a Giambellino molto, molto più ampio, e che invece l'accusa invece ha estrapolato mettendo in luce una serie di azioni, tra l'altro appunto di una decina di occupazioni, adesso meno di una decina di occupazioni in diversi anni di attività, quindi stravolgendo anche completamente il racconto appunto la narrazione di quello che il comitato era nel Giambellino e delle attività che svolgeva nel Giambellino, che non erano solo quelle di difesa delle occupazioni, di presidio nei momenti di sgombero, ma erano attività molto più ampie e più ricche, che gli avvocati hanno provato a raccontare, che hanno provato a raccontare principalmente gli imputati attraverso delle lunghe testimonianze, dichiarazioni, e in cui hanno provato portare all'interno del processo una complessità che appunto era stata completamente stravolta dalle indagini, e cosa su cui secondo me sarà importante anche negli anni successivi provare a, come dire, ad allargare questo racconto, cioè a non stringere il racconto solo su le questioni, come dire, dei capi di imputazione, perché invece riducono moltissimo l'importanza dell'attività del comitato e anche la ricchezza dell'iniziativa che il comitato ha svolto al Giambellino. E devo dire che questo, diciamo, nell'udienza era molto, molto chiara, ma per me, che ho iniziato a raccogliere una serie di testimonianze da parte del collettivo, dei ragazzi del comitato del Giambellino, devo dire che è molto, molto chiara, molto forte, dalla scuola di calcio al corso, al doposcuola, alla mensa, alle attività che venivano al recupero del cibo non venduto al mercato e poi riutilizzato, ma in generale comunque c'è questa volontà da parte di questo gruppo, lo si diceva un po' all'inizio, no? Di vivere il territorio e di ascoltare, di mettere in luce le istanze del territorio, ma anche di agire, che forse è anche uno dei motivi per cui poi il comitato è stato attaccato rispetto ad altri soggetti che erano attivi comunque nel territorio, cioè quello di essere non solo, come dire, osservatori critici, ma in qualche modo di entrare, di essere appunto sì. E questo secondo me è la cosa che ha colpito di più, la cosa che bisognerebbe raccontare di più, è quello che forse ha dato più fastidio ed è quella poi l'energia che poi l'inchiesta ha spento in qualche modo, perché con l'accusa e poi dopo successivamente col processo è stato quello che, cioè la vera, io spero che il processo si risolverà senza delle condanne, ma tutto il chiaramente, diciamo, quello, le indagini e le conclusioni delle indagini per la via del processo hanno raggiunto lo scopo, che probabilmente non è quello della condanna, ma è quello di togliere quell'energia che c'era sul posto, quell'osservatorio che c'era sul luogo e quelle attività che svolgeva il comitato lì sul posto. E quella, secondo me, è la cosa più che hanno raggiunto, diciamo, che hanno raggiunto e che purtroppo, diciamo, questa attività giudiziaria ha colpito in quel posto, e credo che sia, cioè, la cosa su cui bisognerà riflettere di più e su cui vale la pena in qualche modo anche in futuro ragionare. Ecco, mi fermo qua, poi io ti chiederei di tornare un po' sulla rivista. C'è stata già occasione di parlare in passato, però questo nuovo numero continua, oramai cos'è? È un annetto che ci siete dietro, o anche di più, no? Quindi si può incominciare a fare un primo bilancio. E mi sembra che in questo numero lo sforzo di attaccarsi alle situazioni contemporanee, alle maniere in cui si esprime la contraddizione sociale, il conflitto, sia forse anche maggiore di quando avete incominciato. Quindi, insomma, vale la pena di secondo me dirne ancora qualcosa. Rispetto al tema questione casa, ecco, siccome tra l'altro questi compagni del almeno molti di loro hanno avuto in passato rapporti forti con i giri veneziani, cercherei di buttare lì la questione. Certo, è un tema rete laterale rispetto all'urgenza della vicenda del comitato, del processo e tutto quanto, però potrebbe essere l'occasione per allungare l'occhio da quella parte e anche semplicemente riparlare di quello che fu un passaggio importante della vostra esperienza, che faceva parte di tutta una serie di rapporti con aggregazioni, giri di compagni in Italia e non solo, e magari cercare, magari voi ci avete già ragionato tanto, ma mettere insieme le attività in Giambellino, che sono le attività proprie di un gruppo che si propone di intervenire in una specifica realtà a partire dai soggetti che vi esistono, che sono soggetti ovviamente molto molto distanti dall'impegno militante, dalle nostre cose, dalla maniera in cui siamo abituati un po' a vivere, e invece questi rapporti, se vuoi, più elettivi, più che si pongono su un piano di condivisione di esperienze, per usare un termine del tutto inappropriato rispetto a queste soggettività, comunque delle esperienze tra virgolette d'avanguardia, cioè di compagni che non solo hanno una coesione, un vivere insieme, un ragionamento, ma che cercano, avanguardia in questo senso, che cercano di produrre delle innovazioni sul piano della teoria relativamente all'agire. Ecco, io proporrei di ritornare su alcuni di questi temi, di queste questioni. Sì, no, grazie. No, vabbè, molto velocemente dico due cose. Intanto parto prima dalle ultime riflessioni e poi parlo della rivista, giusto per seguire un attimo due cose che avevi in testa. È evidente, no, come dicevate, che è un dispositivo che, insomma, sancisce un modello che, insomma, si vede anche in altri casi, no? L'esempio del sindacalismo di base, degli attacchi al sindacalismo di base, no? Sono soprattutto orientati a delegittimare, a destrutturare, a, insomma, smontare un po' una forza che con il tempo si è consolidata ed è riuscita comunque appunto a ottenere dei risultati rilevanti. Quindi in un certo senso l'azione giudiziaria mira proprio a come diceva anche Salvatore prima, no? Cioè, lo scopo al di là dell'esito finale è proprio quello di creare un teorema, no? Capace anche di ostacolare tutta una serie di pratiche che si consolidano nel tempo, che con il tempo poi diventano anche incisive su un territorio, incisive su un quartiere, incisive sul posto di lavoro, no? E quindi insomma è evidente che c'è un tentativo di legittimazione, un dispositivo che viene utilizzato in vari ambiti proprio per cercare un po' di smontare, di tagliare un po' le gambe. E su questo, insomma, vi volevo pure chiedere, insomma, facciamo come se volevo sapere se appunto la narrazione di ciò che si fa all'interno di un quartiere possa favorire in un certo senso una sorta di autodifesa, no? Di una forma di autodifesa a queste forme repressive, no? Prima Salvatore diceva appunto la narrazione che è passata è proprio cioè, quella di estrapolare delle cose da un, come dire, una forma di intervento politico complessiva che ha a che fare con varie cose, no? Non c'è soltanto la questione casa, ma c'è proprio il fatto di essere presenti in un quartiere e quindi svolgere anche tutta un'altra serie di attività. Questi insomma estrapolano un aspetto, criminalizzano una pratica sul quartiere, eccetera, e quindi si crea in un certo senso un'immagine falsata della realtà delle cose. Quindi io mi domando se una forma possibile per difendersi da queste narrazioni, che poi sono impianti accusatori, non sono narrazioni giudiziarie, mi domando quale possa essere la forma per, no, perché a volte io ho anche in un certo senso paura di farmi definire dall'avversario, cioè perché spesso poi viene anche da fare un po' la parte di chi dice vabbè, guarda che noi facciamo tutte queste belle cose, no? Non siamo quello che, cioè siamo altro. E anche questa cosa secondo me ha dei rischi, però insomma ci si può confrontare su questo, ed è per questo forse che però io ritengo che fare poi ricerca, no? Cercare di lavorare sul territorio anche indagandolo, no? Raccontandolo anche quotidianamente, cercando di raccogliere comunque delle storie di vita, ma è un mezzo anche per creare delle informazioni che poi con il tempo creano, come dire, una base conoscitiva su cui poi ragionare in corso d'opera. Mentre si agisce si ragiona, e quindi si crea una conoscenza condivisa che poi è patrimonio di tutti, è patrimonio di chi agisce sul territorio, ma è patrimonio anche di chi si occupa di altre dinamiche su altri territori, su altri conflitti, eccetera. Però insomma è giusto uno stimolo alla conversazione, cioè il fatto che c'è una narrazione giudiziaria ma anche mediatica, perché poi quando succedono queste cose ci sono i giornali che insomma ne parlano, e ne parlano la maggior parte delle volte in maniera approssimativa, superficiale, eccetera. Però appunto ci potrebbe essere una forma di autodifesa che cerca di ragionare sul terreno della narrazione, sullo stesso terreno della comunicazione di ciò che si fa, però da una prospettiva magari laterale, quindi facendo una ricerca più approfondita, eccetera. E magari se vogliamo ragionare su questo, siccome facciamo questa rivista, e diciamo rispetto alla domanda che faceva Robertino, insomma, la rivista insomma, ospita, come vi dicevamo prima, due interventi, uno del laboratorio Ocio di Venezia, che nasce anche in seguito alla chiusura dell'osservatorio Casa che c'è stato a Venezia fino, mi pare, il 2014, non mi ricordo, e il gruppo di lavoro delle periferie di Milano. Insomma, sono due articoli che sono stati scritti su quest'ultimo numero e nascono proprio le testimonianze di questi due articoli derivano proprio dalla necessità di fare ricerca, di andare a parlare alle persone che vivono quei quartieri, cercare di raccogliere delle informazioni sulla composizione degli abitanti, sulle esigenze, sul patrimonio immobiliare, sulla speculazione che c'è nel mercato immobiliare, su insomma anche delle insomma, informazioni su dati, no? Dati che vengono poi raccolti, elaborati, condivisi. E, insomma, questa è una cosa che noi riteniamo importante, ma vale la pena comunque ribadire l'esigenza poi di fare ricerca su questi aspetti anche al servizio poi dell'azione politica, del conflitto e della insomma possibilità di rivendicare poi il diritto all'abitare, il diritto alla città in un certo senso, per intenderci. E, giusto per due cose sulla rivista. La rivista sì, ormai è da un po' che va avanti, questo è il numero 5, stiamo lavorando al numero 6. Non è facile, cerchiamo comunque di raccogliere dei contributi, però appunto riteniamo opportuno soprattutto che raccogliere contributi da parte di chi si occupa direttamente di alcuni aspetti, di alcuni temi. Quindi non è facile appunto per chi fa intervento politico riuscire a trovare anche il tempo per elaborare poi riflessioni su quello che si fa e su come lo si fa. Quindi è sempre più difficile poi raccogliere dei contributi approfonditi, perché chi fa insomma militanza poi non ha il tempo materiale per mettersi a fare anche il lavoro di scrittura. Quindi noi cerchiamo anche di fare collante, no? Noi vediamo la rivista proprio come uno strumento per raccogliere le informazioni, le testimonianze di chi sta sul campo e elaborarle per condividere poi un percorso e per favorire una riflessione. E non è facile, proviamo insomma ad andare avanti, comunque le forze scarseggiano, però c'è il numero 6 in lavorazione, abbiamo bisogno di un grafico più insomma in maniera costante, stiamo cercando comunque di lavorare anche un po' sulla parte grafica, che insomma è una rivista che ha mille difetti, però cerchiamo comunque di perseverare e proviamo a raccogliere insomma, articoli e prenderci cura comunque dei testi in maniera condivisa nel miglior modo possibile. E vi volevo chiedere appunto, prima voi avete detto, e poi insomma, vi passo la parola, cioè comunque le intercettazioni sono state utilizzate perché nel disegno, come dire, nel accusatorio c'era questa idea dell'associazione a delinquere che come dire, presuppone l'interesse economico, giusto? Mi sembra di aver capito questo. Cioè, però diciamo la giustificazione dell'intercettazione qual è stata? Inizialmente è stata quella, ed è stato quello che... quindi la presupposizione del fatto dell'esistenza dell'associazione. Ok. Sì. Aspetta, chiaramente la funzione dei carabinieri è stata quella, innanzitutto, questo dobbiamo dire che è iniziato... tramite un personaggio del quartiere che ha informato i carabinieri che lui era a conoscenza di gente che occupava, e da lì loro hanno preso lo spunto per incominciare a costruire il loro disegno criminogeno, e che era quello lì appunto, che però hanno trovato un rinforzo da un paio di persone che non sapevano che cazzo dire, si sono inventati delle storie che prendevano dei soldi per l'iscrizione, qualcuno addirittura aveva sparato grosso per l'occupazione della casa, cosa che non stava in piedi da nessuna parte, né per una tessera né per l'occupazione di una casa. Però a loro sta cosa gli è servita in tutti i casi, è stato quello lì che gli permetteva di mettere in piedi l'associazione delinquere, perché c'era il lucro, c'era un discorso di soldi che giravano. In base a questo ha messo in piedi sta cosa, costruita come l'hanno fatta, senza parlare a spese, ci hanno perfino seguito durante una spesa che siamo andati a fare all'Eroe Marlène, per dirti. Non hanno badato a spese, e loro hanno messo in campo tutti i loro strumenti, no, su questa cosa. Non so se poi io poi volevo dire qualcosa. No, dici. No, mi legavo un po' al discorso che forse è più interessante, un po' dico un po' come nasce questo comitato, poi alla fine, che è un po' legato anche un po' a quello che diceva Roby e quello che mi ricordava un po' adesso Nick, che poi alla fine nasce da un gruppo un po' migrante di compagni un po' che giravano tutti in gruppo, in case occupate, situazioni così, diciamo, questa qui, la cosa secondo me importante di tutto questo è che questa cosa nasce da un progetto messo lì e studiato da alcuni compagni, che poi, devo dire, la ricerca poi la fai sul campo, perché sei obbligato a farla sul campo, per forza di cose ti devi scontrare sul territorio e quindi sei obbligato a fare una ricerca pragmatica, sicuramente, però è sempre una ricerca, perché sennò non duri un cazzo dove vai. Però voglio dire, l'aspetto di tutto questo è che dei compagni si sono messi lì e hanno pensato di intervenire su un territorio, con un progetto politico proprio, di intervenire sul discorso della casa. E questa è stata la cosa che è riuscita. È riuscita nel senso che questi compagni sono riusciti a intervenire, a fare un intervento su un territorio e penetrare e a dare una grossa impronta in questo territorio. Se tu passi ancora in Giambellino, ancora ci sono tutte le scritte, ancora la gente teme, diciamo, un possibile ritorno del comitato del Giambellino. E per cui voglio dire, la cosa secondo me importante è proprio che i compagni si sono messi lì e hanno studiato, proprio hanno pianificato questo intervento su un territorio in cui sapevamo che c'era un progetto, il progetto che c'è su tutta Milano, su territori un po' più periferici, diciamo, anche se sappiamo che il Giambellino periferico non è quasi un cazzo, perché è vicinissimo al centro, per cui è proprio uno dei più appetibili. Però questa comunità, diciamo, di compagni si è spostata su un territorio e ha finalizzato l'intervento proprio su un discorso della casa, su un discorso di emergenza, perché c'era un periodo in cui qui facevano i proclami di centinaia di sgomberi a settimane, c'era tutto questo momento di tensione, c'è stata questa scelta proprio di intervenire in questo quartiere dove praticamente ci abitava forse solo una compagna e nessun altro di riferimento. Sapevamo che c'era un'associazione che poteva essere una sorta di cavallo di Troia per entrare in questo quartiere, però il drago, esatto, però diciamo, compagni giovani appunto, senza nessuno un'esperienza di questo tipo, che è piuttosto impegnativa su un territorio del genere e soprattutto per il tipo di impegno, perché lavorare su un territorio come il Giambellino, su un problema della casa, vuol dire che ci sei 24 ore su 24, per cui il primo problema è stato quello di proprio stabilirsi lì, essere lì, perché dovevi essere per forza sul territorio. E, no, dico questo perché poi alla fine credo che questo sia la forza, la cosa migliore di tutta questa situazione, che, di tutta questa esperienza, cioè la capacità dei compagni di poter cambiare delle cose. Le cose sono cambiate, per cui il periodo che i compagni sono stati attivi, ci sono state delle forti per il quartiere delle forti mobilitazioni, gli interventi, la nostra voce si è fatta sentire, siamo riusciti a ottenere delle cose, siamo riusciti a cambiare la vita di alcune persone, tante famiglie sono lì, vivono ancora lì e sono lì anche grazie a, soprattutto grazie al comitato, per cui c'è stato un lavoro. Adesso diciamo quello che è avvenuto dopo, il discorso repressivo, è riuscito a fare quello che ha fatto, anche perché c'è stata una forte una stanchezza, una forte difficoltà a un certo punto anche dei compagni di ricostruire, di rigenerarsi, di costruire una collettività più ampia. È un lavoro che ti sicuramente un intervento pesante che ti logora, però che in realtà ti riempie anche allo stesso tempo, perché è veramente appunto ti lascia senza forza, però ti dà tante emozioni, tante situazioni che ti riempiono, ripeto. E niente, volevo ribadire questo, di tutto un po' questo discorso, un po' come esperienza da poter raccontare, più che il discorso depressivo, che è quello che è, e le risposte sono sempre quelle che riesci a mettere in campo in base anche a quello che sei riuscito a un po' a la forza che hai anche di risposta. Secondo me, cioè, il SICOBAS ha una forza di un certo tipo, dagli l'associazione al SICOBAS, che è un sindacato strutturato per rivendicare i diritti degli operai, dei lavoratori, mi sembra un'assurdità, è proprio una presa per il culo, appunto. Colpire un comitato che non ha sicuramente una struttura riconosciuta, tutto il resto è una cosa più facile e più pericolosa per i compagni, che però, voglio dire, è una cosa che secondo me è funzionata molto nel periodo in cui c'è stato questo intervento, ed è una cosa ripetibile, cioè è una cosa che funziona, voglio dire. I compagni si mettono e fanno un ragionamento e pianificano, riescono a fare un intervento di un certo tipo. Poi bisogna avere la forza di continuare e anche appunto fare ricerca, trasformarsi anche per certi aspetti, che poi sul territorio appunto costruisci quello che serve, no? Ti inventi la palestra, ti inventi la scuola di calcio, ti inventi dopo scuola, un po' quello che sembra che serva. La cosa principale è fare l'intervento, cioè provare a entrare in questi quartieri. È stata proprio quella la scommessa, un po'. Cioè, sembra un cervello fare l'intervento. Ah, sì, qualcosa posso dire. Vai lui. No, sì. Però è più legato a quello che dicevi tu prima, cioè mi riallacciava al discorso della narrazione. Vado un po' così libero. Okay. E secondo me una delle cose che ha dato molto fastidio, al di là dell'entità magari dell'attività, delle occupazioni non tutte rilevate, considerate in vario modo, eccetera, eccetera, è che ha dato fastidio alla narrazione dei politici, che puntavano sul progetto del Giambellino come un elemento di spicco a loro favore. Insomma, si tratta di un'operazione di svendita immobiliare e di ristrutturazione, no? Di passaggio di case che dovrebbero essere popolari a uno spazio che invece non lo è, che però era molto ben costruito e mascherato come un intervento a favore delle persone stesse del quartiere. Il fatto che gli interventi pubblici in continuazione, e anche in presenza dei politici che venivano tipo Sala a fare vari passeggiate in quartiere a sfondo con fini elettorali, fini politici, venisse rovinata la festa con magari interventi forse non pensati, anche molto di pancia, però sostanzialmente veri, raccontando un'altra realtà rispetto a quella che loro intendevano pubblicizzare, perché era proprio questa la parola, secondo me, giusta. E ha dato molto fastidio, è come se io volessi far vedere che sono comunque un sindaco che mi interesso, che sì, ok, ho una politica nel senso aziendale, una preparazione economica di un certo livello, eccetera, però sono uno che sa anche guardare agli strati bassi della popolazione, fare l'intervento intelligente che tiene insieme tutte e due le cose, fino a quando, no, che finora non è mai stato fatto. Ecco, se tu costruisci, se uno va a costruire la sua immagine politica in questo modo e tu vai comunque a incrinare dicendo anche delle cose, o rompo la narrazione di qualcun altro, e questo, diciamo, dà quella spinta in più magari a rivolgersi nei confronti di quella realtà rispetto ad altre che magari fanno sostanzialmente anche forse le stesse cose in modo magari meno pubblico, però diventano quel sassolino che dà molto fastidio. E l'altra cosa invece che mi faceva pensare è che io non credo che sia stato, che sia indipendentemente dal fine di arrivare a una condanna, cioè lo dico malincuore, ma è quello che penso, perché comunque se no non funzionerebbe quello che credo che sia, non so parlare tanto bene, l'obiettivo sperimentale di questa cosa, no? Che, e lo faccio a Padova, lo faccio in altre realtà, se io continuo a farlo va bene, cioè ci può essere una pianificazione, una strategia da parte loro, se tu continui a portare un'accusa di questo tipo, la prima volta non ti passa, la seconda non ti passa, prima o poi qualcosa ti passa e negli anni qualcosa costruisco. L'obiettivo è quello forse, no, di far passare, di incrinare quelli che sono i paletti di questo tipo di, come si chiama, di reato, no? Cioè, quindi non devo più avere un'organizzazione, cioè adesso si dice deve avere un'organizzazione gerarchica, deve essere, cioè, quello che comanda, quello sotto, che poi ci deve essere il fine di lucro chiaro che devo manifestare in un certo modo, ci deve essere tutta una serie. Allora, se tu vuoi usare questo reato come strumento repressivo, forse devi anche, puoi anche pensare che nel tempo fai una strategia in modo da modificarli leggermente questi paletti, li modifichi finché una cosa che si chiamava in un certo modo e aveva un certo carattere, puoi continuare a chiamarla nello stesso modo ma usarlo per altri fini. Cioè non credo che sia casuale che sia legato a quel momento lì, penso che ci sia una strategia giudiziaria, beh, insomma voi avete le parole migliori, però penso che si capisca quello che voglio dire. Grazie. No, beh, io, diciamo, ritornando sempre all'ultima udienza e riprendendo questo discorso, era interessante per esempio notare come l'avvocato che difende i compagni e le compagne ragionava molto su questo limite, no? tra quello che per esempio si parlava delle alcuni capi di imputazione che riguardavano le resistenze pubblico ufficiale, che cos'è una resistenza e come in qualche modo l'impianto accusatorio è esposta l'accusa di resistenza anche quando non c'è un contatto fisico in quasi tutte le imputazioni, tranne in una di cui si è parlato nell'ultima udienza, in cui è però il poliziotto che spinge una persona per oltrepassare, per raggiungere poi il pianerottolo, la scala, il pianerottolo, non c'è quasi mai contatto fisico, quindi la sola presenza per l'accusa rappresenta una resistenza, un reato, e questo è il tema poi, diciamo, importante, no? Di cui parlava anche lei, sì. Cioè portare, sì, significa, sì, portare, diciamo, appunto a spostare sempre di più questa asticella, che ti impedisce poi appunto di poter fare qualsiasi azione che fino a poco fa era legittima o non prevedeva neanche un reato, un'accusa, un processo. Ed è questo il tentativo forte che i PM in questo processo stanno cercando di portare a a casa, di spostare questo, ecco, questa, questa interpretazione del reato. No, beh, su questo direi che abbiamo detto, cioè sugli aspetti penali li abbiamo detti abbastanza. Magari sull'esperienza, magari dire una cosa in più su quella cosa che accennava Roby prima, su tutta questa aggregazione che esisteva di ragazzi e ragazze che in quegli anni era molto forte e che veniva da esperienze di occupazioni di squat, di palazzi, di situazioni abitative e politiche insieme, e che si è trovata a, boh, a sperimentare, a buttarsi in questa cosa nuova, no? di incontrare delle persone con dei vissuti molto diversi, che appunto erano o abitanti del posto, anche non abitanti, ma che avevano esigenze abitative, che quindi incontravano abitativi o voglia di comunque di mettersi in gioco, di dire basta, non accetto più di stare, di vivere in un dormitorio, di vivere in sette, in una stanza, di vivere delle condizioni proprio di pesanti, di perché magari erano in Italia da poco tempo e, o perché vivevano condizioni comunque difficili dal punto di vista economico, con quello che sappiamo, le difficoltà di trovare, comunque di affittare una casa, di, cioè le difficoltà che ci sono nella città di Milano, e quindi tutte queste esigenze si sono incontrate ed è stata una ricchezza molto forte, diciamo che tutta, cioè l'energia che portavamo noi dalle esperienze precedenti dell'università, del vivere insieme nelle occupazioni, di tutte delle lotte che avevamo fatto a cui partecipavamo, si incontravano con queste esigenze invece di queste persone che molte volte erano anche... erano donne con bambini piccoli, erano famiglie o che magari avevano la nostra età, però avevano già un'altra vita, cioè una vita molto diversa dalla nostra. Era una collettività con dei singoli, e la voglia dei singoli di legarsi, cioè un po', sì, sì, di legarsi a una collettività, cioè mi piaceva. Certo, sì, sì, sì, anche la ricerca dello stare insieme, del... e quindi diciamo che oltre alla cosa magari più, cioè, spiegata magari in quei termini, l'intervento nel quartiere, l'intervento sul territorio politico, sulla casa, c'era anche era anche questa la spinta di chi ha dato vita a questo comitato, c'era dello stare insieme, di, diciamo, superare queste condizioni di difficoltà, di fragilità, di miseria anche di vita quotidiana, appunto e di dire si può insieme migliorare la nostra vita e farlo in un luogo, quindi prendendoci anche degli spazi, quindi che è anche quello che poi c'è gli arresti e l'accusa hanno fatto, cioè anche lo sgombero, che non si cita mai, però lo sgombero della base, dello spazio che avevamo, ci ha fatto tantissimo, perché comunque, cioè, la vita lì girava molto intorno a questo spazio che comunque ci eravamo presi, così come anche le case che venivano abitate, così anche come, vabbè, i luoghi magari di aggregazione che erano quelli all'aperto, i parchi o che frequentavamo così, e che abbiamo cercato di dargli vita, perché comunque erano posti abbastanza anonimi, cioè dove sì, c'era chi si trovava, c'erano delle aggregazioni anche precedenti a noi e anche successive, e continuano a esserci, cioè persone che si incontrano, la loro vita anche in comune di collettività che esiste lo stesso anche senza che ci sono questi compagni che vengono a fare l'intervento, però diciamo che c'era questa forza, questa energia che veniva anche, cioè, da lontano, nel senso che veniva da una cosa anche più grande di Milano, che veniva da appunto incontri e di quegli anni che comunque bisogna dire che, cioè, vivevano anche un fermento nel piccolo di una situazione comunque limitata, però venivano da un fermento che veniva magari da lotte studentesche, veniva dalla Valsusa, da quello che succedeva lì, da tante piccole situazioni cittadine che si conoscevano, come si citava prima Venezia o altre, che comunque alimentavano questo spirito qua, questa energia qua. E niente, quindi sì, diciamo che poi la paura, cioè l'altra cosa oltre ovviamente agli arresti, quindi far fuori una serie di persone da quel contesto e lo sgombero dello spazio, e in più anche comunque quel clima di intimidazione che si è creato nei giorni successivi agli arresti, in quei due mesi, in quei due o tre mesi in cui eravamo i domiciliari, che è stato molto pesante anche nel quartiere, nel senso che comunque andavano a colpire con minacce di intimidazioni anche abitanti, occupanti che comunque frequentavano il comitato, che magari non erano stati identificati come partecipanti all'associazione a delinquere, non erano direttamente coinvolti nell'accusa e nelle indagini, però comunque già solo il fatto di aver occupato la casa, di conoscere, erano stati minacciati così. E quindi questa cosa ovviamente ha creato in un attimo un clima di paura, e quindi la solidarietà anche, che comunque c'è stata, è stata anche forte, comunque non è stata in grado di opporsi a questa, cioè questa operazione che ha fatto Tabula Rasa, cioè che comunque togliendo gli spazi, togliendo queste energie, togliendo e mettendo paura a chi frequentava, a chi partecipava, perché comunque cioè comunque la minaccia di essere anche loro indagati o arrestati o di perdere il permesso di soggiorno, comunque di vivere questo ricatto ha allontanato le persone. E niente, poi ovviamente la cosa che c'è da dire è anche che era una esperienza giovane, cioè nel senso che comunque esisteva da 3-4 anni, quindi comunque anche la capacità di riuscire a reagire a tutto questo castello di accuse, questo fango che è stato buttato sopra. Cioè non era facile, perché comunque non era una situazione così solida, cioè era una situazione in costruzione, in movimento, che cambiava anche molto nei suoi partecipanti, perché ovviamente potete immaginare che la maggior parte dei partecipanti erano migranti, erano persone che avevano anche una vita, cioè, difficile, e anche che cambiava anche molto velocemente, perché a seconda delle opportunità che potevano essere di lavoro, potevano essere, e che quindi dava magari la possibilità a uno di dire mi sposto da un'altra parte, oppure no, questioni familiari, io torno al mio paese perché la mia famiglia, oppure c'era chi comunque aveva l'idea di tornare al proprio paese, si metteva da parte i soldi per costruirsi la casa, il paese, c'era tutta una cosa molto fluida, non era quella cosa che si può, quando si parla di territorio, comunque si usa un termine che magari non è molto appropriato, perché cioè non era una cosa, cioè come aggregazione, era una cosa molto fluida, era una cosa che cambiava molto velocemente, e che quindi anche di fronte a un attacco così pesante ovviamente non aveva quella solidità in grado di reggere a comunque attacco, anche se poi dal punto di vista, se vuoi, cioè nel senso, stati due mesi di domiciliare, non è stato un attacco che poi dici arresti o persone che sono dovute andarsene via. Santo di strada, lo sgombero, che poi la base è stata rioccupata, però è sgomberata di nuovo, cioè comunque... Sì, grazie. Intanto se c'è qualcuno che vuole fare altri interventi... Non esiti. No, volevo farti una domanda, ma la faccio a voi a proposito della solidarietà. Tra l'altro era proprio una questione sulla quale volevo riflettere. Mi è chiaro perché un po' hai risposto. Se volete aggiungere, aggiungete. mi sembra di capire che comunque il quartiere ha avuto, insomma, c'è stato un momento di difficoltà, e quindi anche il tipo di solidarietà non è stato, passami il termine, efficace in un certo senso, per come me l'hai detto adesso. Volevo chiedervi che tipo di solidarietà invece avete avuto, se l'avete avuta, da parte anche dei altri gruppi collettivi che si occupano comunque di questione casa a Milano, ma anche in altre città. E niente, no, volevo chiedervi questo. A proposito della solidarietà, in un periodo che è stato evidentemente difficile, però ricordo un passaggio per me molto molto bello, è una delle non tante cose belle di quel periodo, perché si faceva fatica davvero, però la sera in cui arriva la lettera con il cospicuo contributo dei lavoratori della DL, e qui si apre un pezzo dell'esperienza del comitato che merita di essere, secondo me, ricordato, perché si realizzò durante il percorso un tentativo di integrare vari, com'è? Esatto, vari momenti del vivere, perché poi il comitato di fatto si poneva non sul piano della lotta per la casa, ma dell'abitare, che voleva dire sostanzialmente una dimensione di condivisione di vita, dentro la quale stava anche uno sforzo di allacciare dei rapporti con i lavoratori e di partecipare alle lotte, riprendendo, cercando di continuare articolandolo in quella relazione di prossimità, quella dinamica che ha visto davvero questo gruppo di giovani compagni muoversi insieme per andare laddove c'era da fare qualcosa, da vivere un'esperienza nella lotta che potesse porre le basi per una modificazione piccola o grande del modo di vita. Allora, con un termine forse un po' ridondante, delle forme di vita, no? Si diceva. Ecco, questa cosa meriterebbe di essere ricordata anche stasera. È bello quello che ha detto Roby, perché si raggancia, cioè, fa parte esattamente di quello che volevo dire, cioè che volevo aggiungere sulla solidarietà. Cioè, Roby ha fatto benissimo a richiamare questa cosa, perché per rispondere alla tua domanda dal punto di vista della solidarietà di tutti coloro i quali, non solo, ma soprattutto in realtà i compagni, tra l'altro quelli che sono qua proprio e altri che non ci sono, ma sono spesi in prima persona e dopo e immediatamente dopo gli arresti, anche nei mesi successivi, in tantissimi modi, per con una, non so come dire, solidarietà forte e proprio nell'etimo estremamente solida e di vicinanza, e con tutti coloro che magari vanno incontrato in qualche modo, ma non necessariamente, non solo l'esperienza del comitato in sé, ma anche solo chi ne aveva fatto parte, appunto, o le situazioni che aveva attraversato, e così tutto quel bagaglio, forse per me non è sminuirlo, ma forse anche quasi più affettivo, ma di un'affettività estremamente concreta e calata poi nelle pratiche, insomma, in quello che si era condiviso. Ecco, tutto quello c'è stato tantissimo. E in realtà di fatto continua a esserci, prova neanche il fatto che comunque c'è sempre la voglia di parlarne, o anche solo di chiedere come sta andando. Quindi c'è tutto quel bagaglio che, beh, è vero che quell'esempio lì è particolarmente significativo, non so, tutte le esperienze, non so come dire, le esperienze che si era attraversate in un certo qual modo come soggetti che in maniera concreta avevamo condiviso, tutte quelle da quelle più prossime, insomma, i compagni, gli amici di sempre, a quelli magari che non vedevi, tutto quello si è attivato. E d'altro canto tutto il resto, ovvero cioè, il quartiere nel quale avevamo abitato e comunque nel quale, come ricordava Virgio, avevamo operato, no, o molto meno, o quasi niente. Non credo, no, non per cattiveria di chi ci abitava, però questo è un altro elemento su cui riflettere. Cioè, chi viveva realmente in Giambellino, no. Il giro in cui si erano ricostruiti i passaggi storico-politici importanti, anche quella era stata una cosa molto bella. Con cosa, come si chiama? L'hanno fatto con la famiglia Morlacchi. Si erano riproposte in strada delle situazioni importanti, che nel frattempo era ovviamente molto, molto cambiato, ma che meritava di essere restituito nel suo divenire, anche nei suoi momenti più forti. Era stato una bella idea. È bella perché la storia del Giambellino, che ci aspetti per i compagni, prosegue in qualche modo. Adesso è detto che le cose non proseguiranno ancora, cioè sul quartiere. Sono in evoluzione, un quartiere che si trasforma, però anche le cose, i tentativi, anche le lotte sono destinate a trasformarsi in qualche modo. Cioè quello che c'è traccia lì rimane, diciamo, come abbiamo scritto anche sui muri, rimane una scintilla che è pronta a prendere fuoco sempre in quel quartiere. È un quartiere, mi viene a dire particolare, ma non è particolare, perché in realtà tutti i quartieri un po' popolari e disastrati e messi così di Milano sono tutti un po' mi viene a dire del polveriere, e un po' il discorso anche dell'intervento nei quartieri lì, popolari, e anche perché c'era anche un discorso di costruire anche una sorta di resistenza, anche non ci dimentichiamo del cazzo, dopo le votazioni dove stiamo andando, in che direzione andiamo, cazzo. E i quartieri popolari adesso ce ne sono un pacco di queste situazioni, per cui insomma è importante agire nei quartieri popolari. Non ci dimentichiamo che senza il proletariato non andiamo da nessuna parte, senza queste persone, senza un intervento in questi posti, e lo so, non mi viene facile, scusate, ho proprio una riluttanza. E niente, no, non c'ho più niente da dire. No, secondo me questa questione qua è centrale. Cioè, il Giambellino è un quartiere che ha avuto una storia molto grossa, che è stato capace di costruire moltissimo dal punto di vista della coesione e della... la difesa e l'attacco politico all'assetto costituito. È un quartiere contemporaneamente che nel tempo si è fortemente disgregato, ha cambiato la sua composizione interna, ha cambiato l'origine degli abitanti che ci sono, ha cambiato un po' l'anima, no, dentro. È un quartiere, come dicevo prima, in cui forse una buona parte delle persone che ci sono non servono più, mentre invece servono i metri quadri in cui queste persone abitano. Allora il fatto che qualcuno andasse là e cercasse con una pratica quotidiana di riaprire dei livelli di coesione all'interno di questa situazione così disgregata era una potenza tremenda, cioè, diciamo, era un rischio esplosivo, diciamo. È vero che è una polveriera, però è una polveriera con la miccia lunga, e in qualche modo là si è voluto tagliare questa miccia prima che arrivasse in fondo, perché se effettivamente la cosa prendeva un corpo in questa situazione qua rischiava di diventare un problema serio. La CAFFA, ci leggo un pezzetto dal numero, dice: il modello di Milano è cappeggiato da portatori di interesse legati agli immobiliari e gli scontri nell'ambito dell'amministrazione sono scontri di interessi tra cordate di immobiliari diverse, mentre non vediamo politiche di riconoscimento degli interessi giusti delle classi, dei ceti popolari e dei loro diritti, politiche di coerente risposta. A Milano i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri diventano sempre più poveri, è questo l'ininterrotto processo che caratterizza il modello Milano. Noi parliamo di Milano, quella delle cosiddette eccellenze, della scala, della moda, del design, dell'università, dell'efficienza, e parliamo della l'altra Milano, quella che i processi di arricchimento dei ricchi rendono sempre più povera. Mettere un cuneo all'interno di questo processo non è facile, però io penso che si fa così. Cioè il tentativo era, e quindi è come se là ci fossero, forse possiamo vedere tre piani, almeno tre sono venuti stasera, della questione. Uno è quello sulla narrazione, cioè di rompere la narrazione del sindaco bravo che sta rimette a posto il quartiere degradato. Il ricamo. La seconda è quella giuridica, che vuole estendere i limiti e quelli che sono è la prassi di quello specifico reato per poterne fare altra cosa dopo. Il terzo è quello poliziesco, che vuole evitare che questa polveriera esploda in qualche modo. Quindi queste tre cose si combinano in questa vicenda, e quest'ultima è importante e credo che conta, varrà anche per l'osservatorio di Milano, della Molise Calvairate, varrà anche per Occio, cioè la popolazione con cui hanno a che fare è diversa da quella che c'era, almeno per Milano è così, adesso Venezia non lo conosco almeno abbastanza, e questo è un divenire difficile, però è quello che è da fare. Cambia lo stato sociale, cioè se sempre proletari, sottoproletariato, però come dici tu, no, non ho niente aggiunto, è giusto, cioè come dici tu è cambiato, non sono più i meridionali, perché adesso la maggior parte, la metà almeno, sono immigrati. Immigrati, non sono più gli operai delle fabbriche, non c'è più quella struttura che il fordismo dava, di quella, adesso è tutto diverso, non hanno rapporti o meno gli uni con gli altri, capito? Ho pensato di fare questo tipo di intervento, però poi diciamo l'intervento che è stato fatto prima da Mirko mi è piaciuto un casino, perché è quello che dal mio punto di vista valorizza l'esserci, lo stare insieme, la condivisione, no, di un mondo altro, no? E per come se ne parlava prima, no? Rispetto a quello che è stato l'accanimento a questo sogno di tutta una serie di compagni e compagne che vivevano poi in quel quartiere per le loro esigenze, perché studenti, erano studenti magari fuori sede, alcuni, cioè, e avevano questa esigenza. Dico questo perché, cioè, avendolo da io, venendo dall'altro lato della città, come si dice, supportato e condiviso, soprattutto in quelle che erano le iniziative popolari di piazza, con tutte le varie persone di mezzo mondo, no? Mi rode il fatto che, cioè, alla fine traggo delle conclusioni che c'è per dove, come si diceva prima all'inizio dell'intervento di Domi, dove c'è ricchezza che non entra in quelli che sono oggi i binari del capitale, dello Stato con tutti i suoi burattini e sgherri, no? E per forza di cose deve essere tirata giù e in maniera criminosa dal mio punto di vista, per come le cose sono. Infatti ricordo una manifestazione a Roma nazionale sulla questione del diritto alla casa, dove praticamente è stato impiegato l'esercito con tutto lo stato maggiore di tutte le forze repressive di polizie varie, no? E non c'erano passaggi rispetto al raccordo anulare, che ci sono tante entrate per entrare a Roma per poter come si dice, partecipare a questa manifestazione sul diritto alla casa a Roma. E ricordo anche la repressione sul movimento per il diritto alla casa dell'abitare a Roma, dove ultimamente hanno dato delle grosse condanne, ed era quello, era il periodo del contesto dove in un paese così chiamato come questo, Italia, c'erano un casino di movimenti di lotta per la casa a Torino, dove ricordo che si sono inventati addirittura il fatto che se l'abitante stava davanti alla porta e l'ufficiale giudiziario andava con gli sbirri là a sgomberare, o ai solidali che andavano in solidarietà reale, no, pratica, no, là venivano come si dice, denunciati e accusati di una interruzione di pubblico servizio, ma in un certo senso anche una specie di estorsione, se non mi ricordo male, veniva anche attribuita per il fatto che tu estorci la casa, non so, al proprietario, ma non mi ricordo com'era, com'è, però mi ricordo anche questa parola qua. E quindi perché ho fatto questo esempio? Perché oggi, secondo me, questa è una mia reale visione della cosa, cioè per quanto riguarda l'ingiostriamento, lo chiamo io, di quello, in maniera indiscriminata, di quello che è il codice penale che c'ha lo Stato, ed è per questo anche rispetto al Giambellino, questi ragazzi, questi studenti, questi filosofi si vogliono sostituire allo Stato, e c'erano i titoloni sui giornali, no? E qualcuno in questi talk show di Abbaioni, no, l'ha anche detto in queste trasmissioni per valorizzare le sue tesi del cazzo, scusatemi l'espressione, e quindi c'era un certo tipo di... E questo oggi viene, dal mio punto di vista, avvalorato, che rispetto a quel mondo che tenta di fare altro, non voglio dire i compagni, ma quel mondo che tenta di fare altro fuori da quei binari della mercificazione, dello sfruttamento, dell'oppressione, cioè quindi ragionare in maniera orizzontale, lo Stato oggi, lo Stato italiano, ha queste strategie, dal mio punto di vista, in maniera criminosa. E lo dimostra anche il fatto oggi che subito dopo la pandemia e durante la pandemia, chi per tutto quello che, non so, come si dice, le forze dell'ordine dovrebbero essere impiegate per, come dicono loro, rispetto alle truffe che hanno fatto nella sanità, alle truffe nelle mascherine, alle truffe di quelli che hanno beccato, cioè a tutto questo mondo, loro, soprattutto chi fa politica in questi mondi repressivi, in questo caso la Digos, no, va a rompere e a denunciare, no, una serie di partecipanti, studenti, compagni, squatter, occupanti di casa, che in un quartiere popolare sempre, ma già in fase di gentrificazione, come il quartiere Corvetto, cioè si fa un presidio, manifestazione in giro per le vie di quel quartiere popolare, perché una ragazza durante la pandemia è stata violentata, stuprata, e quindi in quel periodo di pandemia gli unici che potevano girare e si vedevano erano le macchine di polizia, carabinieri, polizia locale, eppure con questo loro controllo questa ragazza viene stuprata. la gente del quartiere con i solidali vari fa la manifestazione, tutta questa gente viene denunciata, no, con il DDL che tu non potevi uscire di casa, uno dei primi DDL che avevano messo durante la pandemia. Di storie da raccontare su questo campo, il come c'è questo meccanismo, questo processo contro, no, della gente che loro hanno individuato e hanno avuto modo, dal mio punto di vista, anche nello studio, nelle ricerche loro del cazzo, durante il fattore pandemico, no? E porta al fatto che questi vogliono rompere i coglioni a un modo di vivere, no? Che non vuole stare legato, non vuole stare in quei binari del cazzo, capito? Cioè, no? E un'altra ultima che dico, per esempio, 10 giorni fa circa, tutto un mondo di compagni calabresi da Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e tanti altri paesini hanno fatto un resumé, hanno pigliato 50 compagni alla fine, perché così, 54, no? E li hanno tutti denunciati, non sulla questione del no Green Pass, delle manifestazioni che venivano fatte, perché loro avevano iniziato sulle manifestazioni sanità pubblica, e quindi parte la tiratina di resistenza, di blocchi stradali, cioè vogliono fare come si dice, una specie di processun, cioè, in un certo senso, no? E quindi questo succede. Perché non volevo portare il ragionamento su questo, perché questo è un ragionamento politico, no? Ed è politico il fatto che si siano accaniti contro il Giambellino, è politico che si siano accaniti contro i compagni a Torino, è politico che si siano accaniti in maniera anche più mastodontica di questioni di anni di carcere ai compagni di Roma, e questo discorso continuerà, perché di comitati per il diritto alla lotta alla casa in Italia ce ne sono, e anche a Milano ce ne sono a iosa, perché è l'unico modo che la gente nei vari, soprattutto quartieri popolari, ma non solo nei quartieri popolari, perché se vogliamo andare a vedere anche nel centro città di Milano ci possono essere dei quartieri popolari dalla composizione della popolazione che c'è, e visto quello che è successo, le perdite del lavoro e tutta una serie di cazzi, no? Cioè la gente è costretta a arrabattarsi, quindi io l'affitto non te lo pago, no? E se vi ricordate anche rispetto alla questione pandemia era nata questa piattaforma, no? Che un po' uno, l'inquilino, si autoriduceva l'affitto, che ha fatto un botto questo, però non è stata pigliata in considerazione, anche per quello che erano gli sfratti, soprattutto anche per gente che, come si dice, che magari non scendeva da casa perché l'ascensore ce l'ha rotto in sedia a rotelle, no? Gli sfratti dovevano essere rinviati, col cazzo, gli sfratti sono stati fatti, e in tutta la pandemia sono stati gli sfratti, cioè quindi il discorso pandemico è servito realmente per andare contro la popolazione e soprattutto contro la povera gente, il proletariato, no? E non solo contro questi meccanismi di auto organizzazione, autogestione, ma la pandemia è andata anche contro soprattutto quello che è stato il sistema sanitario, che era, no, i presidi di base dei vari territori, i poliambulatori, no, sono stati tagliati fuori, no, perché quelli ne usufruivano la gente dei quartieri popolari, la povera gente, la gente proletaria, e questo disegno secondo me c'è, dal mio punto di vista. Volevo aggiungere questo, se qualcuno vuole comunque aggiungere delle cose o anche dire qua stiamo andando a Fanta, no, cioè, no. Il filosofo, non so se vi ricordate nelle notizie delle prime ore, dei primi giorni, campeggiava questa figura del filosofo tra gli arrestati, quasi a configurare una nuova fattispecie di reato, uso improprio della filosofia. no, il nome non lo diciamo. I meccanismi sono sempre poi gli stessi. Devi sempre trovare l'ideologo. No, quello che è, no, se anche non c'è o non riesci a individuarla, devi dare un'impronta, per cui... certo, poi è l'unico filosofo presente, forse, adesso magari mi sbaglio, però... sì, perché forse anche loro viaggiano su strategie che hanno dei punti fissi che continuano ad applicare anche quando non è il caso, per fortuna. Il problema è che poi si arriva a dei paradossi che alle volte a noi, cioè, può far ridere, però hanno avuto il coraggio di dirlo, cioè senza vergogna. Cioè, è come dire, è una cosa vale l'altra. Ci sono forse dei meccanismi che sono rodati e che comunque funzionano anche se stai dicendo delle cazzate. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Dico, nelle narrazioni, la cosa che mi viene da dire, no? Perché magari adesso c'è stata questa, c'è questa cosa del Giambellino, c'è stato il comitato, c'è la storia del processo, eccetera, e forse bisognerebbe continuare a seguirla per vedere come va a finire. Mi sembra che l'altro ieri, non so se era lo stesso giorno del processo, mi sembra di sì, perché l'ho sentito alla radio mentre tornavo a casa dal lavoro, e all'interno del quartiere ci sono, secondo il progetto, dovevano essere come si dice, evacuati, cioè dovevano essere svuotate dalle persone abbattute 5 stabili. In effetti, va bene, il primo è stato quello della base, così uniamo l'utile all'utile, però proprio il 150, che è uno dei numeri che dovevano essere abbattuti, di case proprio ancora con strutture di case minime, in cui erano rimaste 6 famiglie, è stato svuotato proprio il giorno del processo. E mi sembra che in tutto fossero 15 persone, di cui 5-6 minori, e una persona molto anziana, e non è stata offerta, cioè, con la presenza del SICET, credo, dell'Unione Inquilini, questo è quello che hanno detto alla radio, e non è stata offerta altro che il dormitorio neanche a queste persone. Cioè, parliamo di una persona che forse ha 80 anni, ecco. E dove sono andate? Non si sa. Dormitorio, questa era, non c'è stata nessun'altra offerta. Per quelli che avevano i bambini, mi sembra che gli abbiano offerto intanto il dormitorio, e forse intanto ci pensano a trovargli una sistemazione che non sia il dormitorio, però i bambini in dormitorio di solito non ci possono entrare, per cui non ho... però è significativo, no? Vuol dire che adesso vai avanti, e forse bisognerebbe continuare a raccontare la storia per vedere dove va a finire. Diciamo, il processo di trasformazione del Giambellino va avanti, ed è importante provare a presidiare quello che succede. Io ieri sono stato in via Giaggioli, dove ci sono 3 stecche costruite, progettate da Arrigo Righetti, un architetto milanese che è stato anche un tecnico comunale, che verranno demolite per essere ricostruite. e il tema importante che andrebbe seguito è lo sgombro delle persone che ci abitano, l'assegnazione in un'altra casa popolare, in un'altra parte della città, e poi la possibilità di queste persone di ritornare sul luogo. Cosa che sta avvenendo, almeno da quello che ho capito ieri, ascoltando un po' le storie delle persone, un po' partecipando all'assemblea, in modo del tutto disattento, diciamo, alle necessità di queste persone, che spesso sono anziane, spesso hanno delle malattie e hanno delle fragilità, e come al solito sembra che, come dire, il progetto di trasformazione sia, vada sempre in qualche modo al di sopra, diciamo, della dignità delle persone che abitano questi luoghi, o sia poco interessato, diciamo, ad essere attento a quello che è la vita delle persone che vivono in questi stabili, che sono tra l'altro l'ultima ristrutturazione di questi giaggioli è di 25 anni fa. Ci sono stabili che questi in particolare sono gli MM, e sono stati mantenuti per anni, adesso verranno demoliti e ricostruiti. Nel frattempo le persone però hanno abitato in questi appartamenti, che sono dei piccoli appartamenti diciamo bilocali, e questo è, guardando lo lenteggio, cioè percorrendo lo lenteggio sulla destra, ma poi c'è tutta la parte invece appunto di Haller, dove ci sarà poi la metropolitana, e dove invece il processo di trasformazione sembra ancora più massiccio, no? più Sì. Scusami, certo. Questa cosa è una strategia che a Milano, non so, io mi ricordo Piazzale d'Ateo. In Piazzale d'Ateo c'era una casa, peraltro molto bella. Piazzale d'Ateo, stiamo parlando del centro ricco di Milano adesso, no? E c'era una casa popolare molto bella, le persone sono state spostate semplicemente con l'idea di ristrutturare tutto e poi farle rientrare. Io non mi ricordo che anni erano, però forse gli anni 80-90, io sinceramente non mi ricordo bene, perché forse ero troppo giovane anch'io. Ecco, cosa è successo? I lavori per la ricostruzione della casa, che adesso si può anche vedere ed è, secondo me, è bellissima, cioè io ci andrei, mi piace, ecco, non so, sono durati 20 anni. Nessuno dopo 20 anni, chi tra ovviamente di quelli che erano sopravvissuti, aveva interesse a tornare in un posto che non era più casa sua. Dopo 5 anni, 10 anni, ti abiti a stare da un'altra parte, tutto sommato. E quindi l'idea di fare un trasloco per tornare posto lì forse non è più così interessante, non ha più così l'urgenza che aveva quando si stavano spostando. E questo è un classico che mi sembra riproposto in varie salse da 20 anni. Tra l'altro MM paga il trasloco verso la nuova casa, ma non dà la possibilità di poter tornare lì, ma non paga il trasloco di rientro. Sì. 700 euro danno, sì. Dove abbiamo avuto appunto, quando siamo riusciti a tenere la casa per una nostra coimputata, Janet, perché siamo entrati appunto in questa situazione che dovevano sgomberare e abbattere questo stabile, per cui siamo riusciti a entrare e a pretendere qualcosa anche per le persone occupanti in quel caso, anche se lì c'era una soglia di chi era più vecchio come occupante rispetto a chi è, perché in tutti i casi è sempre una cosa devi essere lì per lottare per ottenere sempre qualcosa di più, e se non ci sei cosa fanno? Cosa avevano proposto a quelli che spostavano? Non gli pagavano nemmeno lo sgombero, cioè il trasloco, esatto, non era nemmeno pianificato, l'Aller non aveva nemmeno pianificato il trasloco a questi vecchietti che spostava dal palazzo che doveva essere abbattuto. Parliamo di persone che pagavano l'affitto. Per cui neanche questo era stato pianificato. C'è stata un'assemblea in Giambellino e con il nostro intervento siamo andati un po' anche al nocciolo su questa cosa, chiaramente, i punti, la critica, siamo andati a vedere subito i punti e questa cosa mancava, siamo riusciti a ottenerlo per quelle persone, come siamo riusciti a ottenere anche per gli occupanti, sempre con dei limiti, perché no? Dipende sempre dalla forza che hai di contrattazione poi. Sul campo, in questo caso è proprio sul campo, la forza di contrattazione, siamo riusciti a ottenere almeno che quei vecchi occupanti ottenessero una casa temporanea dall'Aler. E qualcosa rispetto al trasferimento, cioè come quello che hanno fatto ieri, e lì che alla fine stavano pianificando uno sgombero con il SICET, con gli altri. Poi sono arrivati all'improvviso, hanno fatto come cazzo hanno voluto e li hanno mandati al massimo, li metteranno nel dormitorio, se accetteranno con le condizioni, che sono condizioni del cacchio per una famiglia, perché poi sono separati, i maschi da una parte, le femmine, non è che il dormitorio c'ha la stanza per la famiglia, i maschi da una parte, le femmine dall'altra, e già tanto, non so nemmeno se prendi i bambini, cioè è una situazione appunto del cazzo, ma noi ne abbiamo visto un sacco, e finché ci sei hai la forza di resistere, di contrattare, di raccontare anche alle persone quello che gli promettono, le false promesse che gli fanno, di dargli qualcosa. La maggior parte degli sgomberi sono così, alla mattina presto non c'è un cazzo di essere, cioè trovi anche persone con invalidità, con situazioni particolari veramente disagiate, cioè persone con molte difficoltà che si trovano per strada, e se non c'è un cazzo di nessuno proprio non hanno, proprio sono così in balia di qualsiasi cosa, non conoscono, tanti non hanno nemmeno consapevolezza di che qualche diritto ce l'hanno, qualche cosa di poter chiedere, magari una casa di emergenza, qualcosa, fare una, cioè, tutta una serie di cose che la maggior parte delle volte, quando, soprattutto nei casi popolari o del comune, Aler, OMM, loro, la loro pratica quotidiana è quella di intervenire e sbattersi nei coglioni sempre, cioè sulle cose. Solo nel momento in cui gli crei problema, inceppi un po' il macchinario, cioè la macchina, e quindi gli crei qualche problema, allora poi là si ottiene qualcosa di, cioè è solo in quel modo che riesce a ottenere qualcosa, se no la modalità è quella. Io arrivo la mattina dopo che tu sei andato a lavoro, alle 8 di mattina ti sgombero la casa con tutti i tuoi mobili dentro, tutto quello che c'è, te lo butto fuori, te lo faccio portare in un cazzo di deposito, ti rubo le, cioè ti faccio sparire tutte le cose, ti denuncio, e se persisti ti denuncio, cioè un discorso, quando non c'è la capacità, appunto, come siamo riusciti a creare per certi aspetti noi, di un gruppo che si dava forza l'uno con l'altro, di riuscire a resistere a questa modalità anche, perché poi ritorno al discorso, come è anche iniziato, la prospettiva era quella che c'erano un sacco di sgomberi nei quartieri popolari di case occupate. E questo è stato l'intervento che il comitato si è sentito di prendere di petto e dire ok, adesso vediamo noi come facciamo, e questo è stato un po' presidio contro questo, contro anche quello che volevo dire anche prima, presidio antirazzista tutto sommato, è un discorso che nei quartieri popolari adesso come adesso non è facile portare avanti un discorso antirazzista e riuscire a non far entrare invece le spinte reazionali, cioè tutte le spinte che ci sono adesso, cioè di nazionalismo, di cazzo dicono adesso, lo slogan di adesso, come sono, alla Meloni. Volevo fare un'ultima domanda, se posso, insomma, per chiudere. Sì, e a voi. Volevo sapere se per voi questa è, insomma, cosa farete adesso, cioè nel senso, questo processo per voi è, sancisce, mi sembra di capire, un po' una tappa di un percorso che comunque avete iniziato e che, insomma, da quello che ho sentito vi ha fatto anche crescere, no? Mi permetto di dirlo, più che altro perché mi sembra di capire che quanti anni avete, cioè siamo sui 20 e passa, mi sa, no? In più? Ah, allora... No, tutto il ragazzo. No, ah, ok. Chi è? 30, quando iniziato. Ah, ok, però vabbè, comunque, al di là dell'età anagrafica, però comunque mi sembra di capire che c'è un'esperienza molto importante, incisiva. Cioè, cosa penserete, cosa pensate di fare? Qual è il prossimo... insomma, passaggio, quali sono le in prospettiva, cosa volete fare, cosa intendete fare al di là, diciamo, della situazione del processo? Domanda brutta. Esatto. No, vabbè, ma non volevo dire cosa fare da grandi, no, volevo dire più che altro se da questa esperienza, insomma, pensate di... No, vabbè, no, ma no, è una domanda più che legittima, però è anche giusto, perché effettivamente... chi ci conosce lo sa, ma chi non ci conosce no. Non solo in realtà per la... non solo per la parte repressiva, ma per varie altre ragioni, e comunque sì, certamente anche per quello, l'esperienza in sé del comitato, per come l'ha stata descritta oggi, quella di fatto non c'è più. Quindi resta... una discussione tra le persone che hanno condiviso, che si trovano a essere imputate, non solo ovviamente sulla situazione processuale, ma anche su quel che significa, e quindi sulle scelte da prendere, non solo pensando a se stessi, ma anche per la natura del capo di imputazione. E per il resto, quello che hai detto tu è assolutamente vero, cioè è una cosa che ha fatto sicuramente crescere tutti, o imparare, sicuramente imparare delle cose, però al di là del fatto che siamo, oltre che compagni, amici, ci vediamo spesso e ci incontriamo in delle cose, sono cose che magari elaboriamo collettivamente per quanto riguarda il processo, e per il resto magari ci confrontiamo, ma per il resto una risposta non c'è, ecco, di cosa vogliamo fare. Anche perché credo che sarebbe diversa per ognuno delle persone coinvolte. Ah no, sì, se era quello, sì. Appunto, il comitato, diciamo, quella forma di comitato non c'è più, nel senso, questa cosa. Poi, come dicevo anche prima, il quartiere lì, le situazioni sono lì come in tanti altri quartieri. È un peccato, perché il quartiere è caldo, mi viene da dire, per cui basta poco. Io sono lì, le prospettive, faccio le cose che ho sempre fatto. C'è la possibilità di tornare a fare un intervento con le modalità che si creeranno, se si creeranno, però di sicuro di proseguire, no, su questo percorso, per quanto riguarda me. Dai. Io sono d'accordo con Virgi in questo caso, perché è l'unico modo, e i territori lo dimostreranno, non c'è bisogno, come diceva prima qualcuno, no? Cioè, ci devono essere per forza i compagni, capito? I compagni che ci sono, che si vivono quei territori, daranno il loro contributo, no? Di senso, come l'hanno sempre dato, però il discorso continuerà, perché soprattutto rispetto a quello che è la crisi, che la popolazione si vive oggi, no, e voglio, cioè, sono tante cose, cioè, capito? C'è uno che legge le cose, no, vede che la popolazione si vive un cazzo di malessere mastodontico, lo vedi anche frequentando i mercati popolari che ci sono non solo nei quartieri popolari, ma anche nel cuore della città. Lo vedi, lo noti e senti le voci di questi bancarellari, di questi lavoratori. No, dice, non c'è, come si dice, non c'è più trippa per gatti, capisce? E quindi i quartieri, giustamente, come sono là, cioè, ma agent è là, prima o poi qualcosa, no, in positivo, cioè, succederà, speriamo, ma questo è l'esserci e va a inceppare quello che questo disegno, dal mio punto di vista, ripeto, criminoso, che lo Stato, con i suoi burattinai governativi e con i vari sgherri che ha di polizie, no, usando la Costituzione e il codice penale in maniera come cazzo loro vogliono, prima dicevo indiscriminato, ma è così, come cazzo vogliono loro, per levarti fuori dai coglioni.